Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera parliamo di e con un personaggio decisamente non sospettabile di cedimenti alla correttezza politica. È un giornalista e scrittore, si chiama Camillo Langone e ha inclinazioni decisamente controcorrente. Gli piacciono la messa in latino, la carne di cavallo, la pittura figurativa, l'amore eterosessuale, il Lambrusco, che dà il titolo al suo libro Pensieri del Lambrusco, pubblicato da Marsilio, 176 pagine, 16 euro. Langone è coraggioso, caustico, perentorio, non ha dubbi sulle sue salde convinzioni che potremmo definire a forte tasso di tradizionalismo. Assiste amareggiato al declino della città in cui vive, Parma, a rischio di perdita di identità anche per la forte pressione migratoria. Non condivide le mode più o meno momentanee, cerca rifugio nella difesa delle tradizioni alimentari, culturali, sociali, religiose. Del resto, il sottotitolo del libro non lascia dubbi: contro l'invasione. E Langone spiega circa l'inizio del libro: vidi la patria invasa e mi rifugiai nel Lambrusco. Scelsi il Lambrusco siccome unico vero vino autoctono italiano, derivante non dalle viti caucasiche portate dai greci, ma dalla vite selvatica presente ben prima della storia nella foresta primaria padana. E adesso sentiamo l'autore. Buonasera Camillo Langone. Buonasera a lei. Camillo Langone, lei teme per gli italiani nel suo libro, scrive infatti in una delle prime pagine che vede i suoi connazionali, cioè tutti noi, come indiani nelle riserve abbrutiti dal paternalismo di nuovi padroni. Da dove nasce questo pessimismo? Beh, nasce dal fatto che noi siamo invasi, quindi ogni giorno abbiamo le prove, chi vuole leggere, chi legge i giornali o chi guarda i siti internet lo sa, insomma, se uno poi dopo invece passeggia per i parchi, magari forse non se ne accorge, non lo so. Comunque, ecco, noi siamo invasi demograficamente, siamo invasi religiosamente, siamo invasi economicamente, ci comprano pure le squadre di calcio, che io non tifo, ma comunque, insomma, quindi noi siamo messi così, ecco, e non ce ne stiamo, e gli italiani non se ne accorgono, un po' come quel fenomeno, mi pare, della rana che viene bollita lentamente, non se ne accorge perché la temperatura cresce appunto in modo progressivo. E non viene scottata così immediatamente, ma lentamente, e poi si ritrova bollita senza che se ne sia accorta. Ecco, noi stiamo bollendo, stiamo per diventare bolliti e non ce ne siamo accorti. E a un certo punto cita, per contestarlo in qualche modo, un verso famoso di Gaber. Lui diceva libertà e partecipazione, lei dice libertà e diversificazione. Vabbè, ma io non ho mai capito poi se Gaber ci credeva o non ci credeva a questa cosa, no, dato che mi sembrava un uomo molto intelligente, non lo so, non ci ha mai molto creduto o non ho mai molto voluto credere a quel suo verso. Libertà e partecipazione, no, io per esempio sono non tanto democratico, cioè vado poco a votare, vado di malavoglia, spesso non ci vado nemmeno, e sono più jungeriano. Junger diceva, nel Trattato del Ribelle, diceva che insomma bisogna prendere la via del bosco e in qualche modo, cioè, insomma, e non pensare di poter determinare qualcosa attraverso quelli che un altro definiva ludi cartacei. A un certo punto lei racconta di un'esperienza banale: cercava un termometro, non ha trovato il termometro all'antica e ha scoperto che i termometri devono essere quelli sedicenti ecologici concepiti a Bruxelles in una notte di sonno della ragione. Qui c'è molto del malcontento per l'Europa, spiega molto questo suo riferimento. Certamente, ovviamente è una cosa scritta molto prima della Brexit, è vero, cioè, voglio dire, cioè, ci sono dei personaggi. C'è un mondo irreale che decide per noi, e se uno ascolta anche i medici, gli infermieri, i medici, sa che esiste un problema vero, reale, riguardante i termometri, e che sono stati imposti, diciamo, dall'Unione Europea, da qualcuno che sta lassù, e noi ci dobbiamo ciucciare questi nuovi termometri che non funzionano bene perché sono più ecocompatibili, ho capito? Però insomma, io invece sono un umanista antropocentrico e dell'ambiente non me ne frega niente se l'ambiente, diciamo, non mi aiuta, e io non voglio morire per fare piacere a qualche pesciolino, quindi voglio dire, quindi io uso quando li trovo, perché esiste qui anche un mercato parallelo, insomma, i termometri a mercurio, inquinantissimo, pare, pazienza, ecco. Senta, poi a un certo punto lei se la prende con i teologi che vogliono cambiare le parole di Cristo, perché negli ultimi anni, secondo loro, gli uomini sono cambiati, certo, anche con i vescovi. Ho visto, abbiamo visto, beh, sì, ma sì, abbiamo visto, cioè, in questi ultimi tempi abbiamo visto il tentativo ributtante di mettere in bocca a Gesù Cristo parole che Gesù Cristo non ha mai detto, insomma, no? Cioè, se c'è una cosa chiara nel Vangelo, ci sono tante cose non molto chiare, ma una cosa chiarissima è il divieto di divorzio, cioè, il matrimonio indissolubile, cioè proprio non c'è nessuna possibilità di inserire il divorzio in un contesto cristiano, nessuna. Poi ovviamente abbiamo teologi, vescovi, cardinali che invece negano questo e negano quindi Cristo e il Vangelo, quindi purtroppo viviamo in una fase di apostasia, ecco. E viviamo anche in una fase estinzionista, per usare una sua parola. Lei ne parla quando cita Ettore Gotti Tedeschi, un grande economista che lei vorrebbe ministro dell'economia, anch'io lo stimo molto, secondo il quale la crisi economica è innanzitutto una crisi morale. Che cosa le piace del pensiero di Gotti Tedeschi? Sì, è una crisi morale, e quindi scrive Gotti Tedeschi, ma poi anche altri, non è in maggioranza, ma non è in solo. È una crisi demografica, la crisi economica è una crisi demografica, è ovvio, il nostro paese è sempre più vecchio e ovviamente cioè, le tasse non possono diminuire, perché non possono diminuire le tasse, è inutile promettere, è inutile sognare una diminuzione delle tasse, fino a che non si sia pronti ad accettare una forte diminuzione delle pensioni e dei servizi, del servizio sanitario. E sono due cose che ovviamente vanno di pari passo con l'invecchiamento della popolazione, questi costi ormai poco sostenibili. Quindi voglio dire, è una crisi, se vogliamo, una crisi morale, ma sicuramente anche chi non interpreta in questo modo le cose, è una crisi demografica. Un paese, il nostro boom economico, l'ultimo grande momento dell'Italia, è stata fatta con una nazione giovane, con un popolo giovane, pieno di giovani, con voglia di lavorare, con tante con libertà, con tasse basse, eccetera eccetera. Oggi come possiamo noi? No, c'è chi sogna dei rinascimenti o delle riprese, è veramente evidentemente consuma delle droghe a me sconosciute, perché non è assolutamente possibile. Noi non possiamo avere una vera ripresa economica, cioè una sostanziale ripresa economica, forse avremo più 0,2, più 0,5, più 1, ma non possiamo certamente tornare a grossi tassi di crescita, perché siamo penalizzati dalla demografia. E fra gli aspetti in crisi c'è anche il libro. Lei denuncia il fatto che l'editoria è diventato ormai campo di interesse soltanto per gli editori che pubblicano romanzi. Sì, però nella catastrofe generale non mi sembra che il libro vada poi così male, nel senso che gli italiani certamente sono un popolo di semi-analfabeti, ma non è che abbia mai letto tantissimo, adesso legge ancora meno, ma insomma non è che siamo paragonabili alle nazioni civili dove si legge dalla Germania, alla Francia, all'Inghilterra appunto, e poi il resto del mondo, insomma, quindi non è una cosa così tragica. Comunque secondo me il libro proseguirà, seppure in modo ridimensionato, voglio dire, a differenza dei giornali di carta, che effettivamente insomma, non sono sicuro che fra 20 anni saranno ancora fra noi, invece i libri di carta, credo, o comunque i libri, che fra 20 anni ci saranno ancora. Non sono preoccupatissimo, ecco, per il libro. Certo, la sensazione, ma si fanno tantissimi romanzi, anche perché si ha l'idea che tanti vengono letti soprattutto dalle donne, che i lettori sono soprattutto donne, ma poi in realtà sappiamo bene che ci sono tantissimi romanzi che non vendono assolutamente niente. Voglio dire, esistono alcuni romanzi che vendono e migliaia di romanzi che non vendono nulla. Quindi ogni tanto qualcuno mi dice: ma perché non scrivi un romanzo? Mi mettono questa cosa, questa idea sbagliata in testa, perché la botte del vino che ha, io non credo di avere, la mia botte non ha il romanzo dentro, e quindi forse è meglio che lasci perdere, ecco, sogni di gloria e di classifica. E in questo suo libro lei dà molto spazio alle sue passioni, alle sue idiosincrasie, per esempio la passione per l'arte figurativa, la passione per la carne di cavallo, l'idiosincrasia contro lo statalismo, questa mi piace molto in particolare. Beh, insomma, non, io poi non sono uno sfrenato liberista, io passo per estremista, ma in realtà io credo di essere un moderato, quindi sono un moderato anche nella mia versione verso lo statalismo, ecco. Non semplicemente in questo momento abbiamo troppo Stato, no? Io non sono di quegli anarco-capitalisti americani che vogliono eliminare del tutto, fare delle piccole entità autonome, completamente indipendenti, cioè, no, a me basterebbe, diciamo, avere un po' meno Stato, però già questo sembra un sogno degli estremisti, insomma, ecco, questo è terribile. Ecco. E attraverso un libro ha scoperto Montaigne, che diventa uno dei suoi modelli. Insomma, è uno dei vari, dei numerosi, io leggo parecchio, quindi ogni tanto mi innamoro di un Montaigne, sì, era un signore libero, ecco, lo aiutava anche il fatto di essere appunto un signore in senso stretto, era un ricco personaggio della provincia francese, un signorotto, insomma, un nobiluomo, e quindi voglio dire, insomma, oggi stiamo tornando un po' a quel tempo, nel senso che oggi credo che la libertà di espressione o comunque la libertà di scrivere libri stia tornando, diciamo, a disposizione dei benestanti, ecco, cioè, non mi sembra che ci sia più possibilità di essere filosofi o poeti, scrittori, narratori, se non si ha una famiglia importante alle spalle, e questo insomma, è una cosa molto brutta, però vogliamo, c'è questo fenomeno, cioè il pauperismo generale ha portato invece, diciamo, stiamo tornando un po' a quell'epoca, ma anche all'Ottocento, se noi ci ricordiamo il conte Manzoni, il conte Leopardi, no? Avevamo, insomma, i grandi letterati erano dei signori che avevano ottenute grandi palazzi, grandi appezzamenti, grandi proprietà terriere. Questo è insomma, mi fa venire in mente questo, pensare a Montaigne. Grazie a Camillo Langone, autore di Pensieri del Lambrusco. Buona serata. Grazie a lei. Uno degli autori di culto citati da Langone è uno dei migliori scrittori italiani del Novecento, Tommaso Landolfi, di cui Langone cita l'ultimo libro pubblicato da Adelphi, riconoscendo in questo libro il merito di averlo introdotto, come pochi altri, alla letteratura russa. E allora vi segnalo questo libro, che si intitola I Russi, pubblicato da Adelphi, appunto 366 pagine, 30 euro, e curato da Giovanni Maccari, che definisce Landolfi come un vero maestro nel genere dell'atto mancato, e forse per tener fede a questo magistero non è mai stato in Russia, né, per quanto si sappia, ha mai manifestato l'intenzione di andarci. La sua Russia era un'immagine letteraria, lo sarebbe rimasta, un paese di carta, la carta dei libri che leggeva e quella dei giornali su cui uscivano i suoi articoli, e poi i discorsi dell'ambiente in cui prendevano corpo le sue vaghe aspirazioni. E qui troviamo tutti gli scritti di Landolfi di argomento russo, raggruppati per temi, per autori, scritti nei quali, pur essendo, come dice sempre il curatore, episodici ed eterogenei, si rifrange un'immagine singolarmente viva di quella letteratura, una capacità di intuirla che non ha molti uguali nel nostro Novecento. E qual è, secondo Landolfi, il carattere autentico della letteratura russa? Sentiamo una sua breve e fulminante sintesi in queste righe. Qui si precisa un altro dei possibili caratteri di questa letteratura, per avventura il fondamentale. I fantasmi, se anche non hanno volto, hanno occhi fondi che attraggono. E questa è forse, in sede letteraria, la maggiore scoperta della letteratura russa, che, presentita e latente in tutta, si può dire, la europea del XIX, si conclama tuttavia qui con una violenza senza pari. Gli spettri della ragione, i mostri dell'immaginazione, in una parola ciò che si chiama male o peccato, in nessuna letteratura sono presenti come in questa, che veramente figura il loro trionfo, ma non trionfo sulle forze del bene, al contrario al loro medesimo titolo. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci sentiamo fra pochi istanti. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24. La passione si sente anche in viaggio. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Quale sarà la colonna sonora della vostra estate? Vi aiuto a comporla con i libri di tre tra i maggiori autori italiani. Povero cuore, come un povero scemo, apro la finestra e sono qui che fumo e vivo la mia vita a passo d'uomo, altro passo. L'avete riconosciuto, è Francesco De Gregori che con Antonio Gnoli, un giornalista di Repubblica, pubblica per la terza Passo Duomo, 234 pagine, 16 euro. E Gnoli una sera conosce De Gregori, scopre un personaggio molto diverso da quello celebre per la sua refrattarietà a parlare e a mostrarsi, lo segue in alcuni tour, chiacchiera con lui, ne scopre i gusti letterari. E da questa conversazione nasce dunque questo libro che si apre con un ricordo degli anni dell'infanzia e una conclusione sulla morte drammatica di uno zio del cantautore. Al centro del libro troviamo riflessioni mai banali su tanti temi, per esempio la politica, la sua fiducia nella spinta modernizzatrice che il PC aveva sperato potesse avviare dopo il 68 si è molto attenuata e le molte delusioni successive lo portano a rivalutare un personaggio che allora detestava, Craxi. E oggi sentiamo cosa pensa oggi De Gregori della politica e della sinistra. Devo confessarti che il mio interesse per la politica negli ultimi tempi si è abbastanza inabissato e anche la mia adesione, diciamo di default, ai temi cari alla sinistra di oggi è assai meno convinta. Non riesco più a misurare l'esistente utilizzando le consuete categorie di appartenenza e di condivisione ideologica. Molta sinistra oggi è piagnisteo e buonismo di terza mano. Quella che dovrebbe essere la sua missione storica, la difesa delle categorie sociali deboli, è confusa e frammentaria. Ma è la politica in generale, non solo la sinistra, a soffrire questa involuzione. Leggo, in certi preoccupanti riflessi condizionati, un'overdose di ideologia fine a se stessa, una discreta ignoranza dei meccanismi della modernità, una fastidiosa autoreferenzialità. Le uniche fibrillazioni vengono spesso dalla coazione a fare bella figura nei talk show televisivi. In definitiva, parlerei di una pericolosa inadeguatezza a governare. Oltretutto, mentre una volta pensavo che la politica potesse in qualche modo risolvere i problemi del mondo, anche quelli più minuti, dal trasporto urbano al rifacimento delle strade, adesso registro il fallimento di questo schema pragmatico. E da quella svolta deriva un cambiamento nel ruolo stesso dell'artista. Scrive De Gregori, per lungo tempo si è discusso intorno all'impegno sociale dell'artista, soprattutto la sinistra si è concentrata su questo compito, ma se annuso l'aria sento qualcosa che puzza di edificante, anche se ho l'impressione che gli artisti oggi parlino un po' meno, dicano un po' meno cose di sinistra. Cosa vuoi che dica un artista di oggi sul mondo nel quale viviamo? Le stesse cose con ogni probabilità le direbbe l'uomo della strada, dal momento che proverebbe le insicurezze e le paure di chiunque. E allora la via d'uscita è appunto quella indicata nel titolo, che è il titolo anche della canzone di cui abbiamo sentito qualche battuta, Passo Duomo, l'espressione che a De Gregori piace per questo, perché significava e significa che per misurare il mondo devi saper misurare l'uomo, conoscerne i pregi e i difetti, le viltà e gli eroismi. Non è così che possiamo ragionare, finisce che ci facciamo troppo male, dentro al naviglio discorsi del giornale, allora è meglio il colorante artificiale. Salviamo Milano dal sole, salviamola dalle troppe parole, salviamo Milano dal mare, lasciamola stare. L'altro autore è particolarmente caro agli ascoltatori di Radio 24, Enrico Ruggeri, che è anche scrittore e scrittore di libri gialli. È un giallo, è l'ultimo titolo che ha pubblicato, Un prezzo da pagare, pubblicato da Mondadori, 204 pagine, 17 euro. Siamo in una Milano pre-pasquale, dove il vicequestore Lombardo dovrà indagare sull'assassinio di una velina, una soubrette televisiva, Patricia Calvi, che è un nome d'arte, e l'inchiesta si svolge nell'ambiente dello spettacolo. Qui si immerge Lombardi, incrociando una composita schiera di possibili sospetti che hanno a che fare con la vita pubblica e con quella privata della vittima, probabilmente preda del meccanismo che così descrive uno dei protagonisti del romanzo, egli stesso, star del rock. Si vede proprio che lei fa un mestiere diverso dal mio. Qui la regola è andare avanti. Quelli che arrivano, caro commissario, non sono i migliori. Vede, il mondo è pieno di gente di talento che non ha combinato nulla perché non aveva energia, rabbia, perché non sapeva vivere. Gente che si è lasciata distogliere dalla vita. Io ho sempre saputo reagire. Il mio male di vivere l'ho curato lavorando. Ombre de muri, muri de maine. te ne vengi, tu ve le canè. Densci tu du vali, a se mostrani. E a netana punto, cutti luagù. Anche questo l'avete riconosciuto, è Fabrizio De André, di cui Mondadori pubblica i diari col titolo Sotto le ciglia, chissà, 238 pagine, 19,50. Le carte di De André sono raccolte nel centro studi di De André presso l'Università di Siena e studiate dalla fondazione che porta il suo nome. E qui ne viene pubblicata una selezione di frasi, riflessioni, versi, appunti, autografi che ci fanno meglio penetrare nella poesia di De André. Sentiamo dal libro alcuni passi. Nel primo circoscrive con modestia il proprio ruolo di cantautore, facendo riferimento a un personaggio di cui abbiamo appena parlato come De Gregori, o ad amici come Gianni Borgna, che era l'esponente del Partito Democratico, assessore a Roma e grande appassionato e studioso di musica leggera. Saremmo messi bene se ci dovessimo accontentare delle chiose socio-politiche di De André. Anche ammesso e per niente concesso un paritetico livello culturale con uno shash, mi pare ci siano anni luce di distanza tra la mia capacità di analisi e quella di shash e altri intellettuali, tra i miei versi per canzone e la loro forza letteraria. Il problema è che con la loro scomparsa siamo rimasti orfani dei migliori polemisti nazionali. E gli spazi vuoti, si sa, bisogna riempirli in qualche modo. Magari con surrogati meno tristi dell'orzo. Per esempio ascoltandosi un disco di De André o di De Gregori. Poi non mancano riflessioni sui soldi e sull'età che avanza. Il denaro la attrae, signor De André? Sì, sono io che non sono mai riuscito ad attrarre lui. Cosa farò dei soldi di questo disco? Non so se spenderli nel farmi tirare la faccia per sembrare più giovane o se usarli per concedermi il tempo di scrivere qualcosa di serio, per sembrare più vecchio. Un viaggio musicale è quello che ci propone Vittorio Bongiorno, che è uno scrittore musicista siciliano che pubblica con EDT City Blues, Los Angeles, Berlino, Detroit, musiche, persone, storie, 350 pagine, 11,90 €, tre possibili mete accomunate dalla straordinaria vitalità culturale e musicale, un triangolo magico, scrive l'autore, che ha prodotto la musica più travolgente, l'architettura più inventiva, la letteratura più straordinaria, il cinema senza tempo, i sogni più accecanti. Quindi non troviamo nel libro solo musicisti, ma anche riferimenti alla cultura più in generale. Berlino, per esempio, è fragile ma misteriosa, sexy ma povera, frivola ma malinconica, e ha un suono unico che cambia nel tempo ma che è sempre struggente. Seguendo quel suono e ascoltando i racconti di chi l'ha plasmato, si può capire di Berlino molto di più di quanto scrivono i giornali o i libri di scuola. Los Angeles è quella descritta da Rainer Banham, un autorevole storico dell'architettura, che vuole creare una nuova forma, un nuovo modo di raccontare l'architettura partendo proprio dal simulacro della cultura pop e dunque inserendo luoghi e concetti che nessun urbanista e critico dell'architettura avrebbe prima preso in considerazione. Detroit, che ha un cuore profondamente black, un cuore tradito, spesso violento e non scolarizzato, ma che ha forgiato con il sudore e il sangue l'idea di prosperità di un'America che passa dai campi di cotone alle fabbriche di automobili, dall'urbanizzazione alla modernità, che inventa la middle class con musica di sottofondo a tutto volume. E il libro si conclude con una raccomandazione che potrà essere utile in questo periodo di viaggi e che vi propongo. Le mode e il turismo possono anche ridisegnare il vestito di un luogo, più costoso ed esclusivo. Ma il battito che pulsa nelle vene rimarrà al sicuro in fondo alla sua anima, pronto a essere ascoltato da chi lo vorrà veramente, da chi sarà disposto a scavare oltre la superficie. Per questo è bello viaggiare senza mappe o con pochi punti di riferimento, per potersi perdere e scoprire il suono delle città dormendo in letti scomodi, aprendo frigoriferi disconosciuti e assaporando cibi mai provati. E in ogni città drizzare le orecchie a ogni angolo di strada, a ogni bancone di bar, nel retro di ogni ristorante, un piede dopo l'altro, un chilometro appresso all'altro. È così che si incontrano le persone migliori, ma anche alcune delle peggiori. Ed è lì che uno scrittore come me ascolta le storie più belle. Rimaniamo agli Stati Uniti con un altro libro di mete curiose, è il libro di Alberto Giuffrè, giornalista di Sky, che ha scritto Un'altra America, viaggio nelle città italiane degli Stati Uniti, è pubblicato da Marsilio, c'è 18 pagine, 15 euro, Rome, Venice, Palermo, Florence, Genoa, Naples, Milan, Verona, sono città disseminate in tutti gli Stati Uniti, dalla Georgia alla California all'Alabama, e visitare queste città per l'autore significa unire per disegnare il lato B dell'America, con le sue ansie, i suoi simboli, le sue ambizioni. Il paese che suona è quello che cerca di scrollarsi di dosso il titolo di patria spazzatura. Rome è un nome estratto a sorte per fondare una nuova città in Georgia. Venice nacque nel 1905 come un possibile parco di divertimenti ricco di canali e di gondole. Palermo è nel Nord Dakota e porta questo nome per ragioni misteriose, forse per commemorare la vittima siciliana di un regolamento di conti. Florence invece è in Alabama ed è una città musicale, forse porta quel nome come segno di speranza nei confronti del razzismo allora imperante in quella regione, una sorta di antidoto si cercava proprio nel nome di Firenze che evocava una grandissima civiltà. Genoa in Nevada sarebbe il segno del passaggio di due tifosi del Genoa. Naples invece in Florida, una delle città più ricche degli Stati Uniti, ci ha vissuto anche Chinaglia e c'è una casa Spielberg, e il nome deriverebbe dalla scelta di un eroe di guerra messicano che aveva ricevuto la cittadinanza napoletana. Un'altra possibile motivazione del nome sarebbe quella di onorare il figlio del re di Napoli, il re era Gioacchino Murat, il suo figlio si rifugiò dopo la fine del padre appunto in Florida. E poi c'è Milan nell'Ohio, una città che si sarebbe voluta dare un nome altisonante e quindi scelse una grande città europea che è tra l'altro la patria di Edison. E infine c'è Verona nel New Jersey, la patria delle bandiere americane, c'è la maggiore produzione di bandiere in questa città che si chiama così per evitare omonimie con possibili altri nomi. E a questo punto il confettino. Abbiamo parlato di America e una megalopoli americana occhieggia dalle illustrazioni del viaggio di Agatha e del suo mega zaino di Magali La Huche, tradotto da Tommaso Guerrieri per Edizioni Clichy, 15 euro, dove Agatha appunto scopre che bellissime vacanze si possono trascorrere anche in cima a un condominio. E con questo ringrazio Luca Cremonese redazione e Pietro Accorti regia, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.